se tu non tornassi più. Adesso io vorrei un fermo immagine, una fotografia da portarmi negli occhi. Ma sì, il tempo lava via e tutto guarirà, ma la mia pelle no, non ti dimentica. Prendi un pennello e tatuami le mani e poi le braccia, che uso per toccarti, per sentirti ed abbracciarti, ed in silenzio dato al tuo sorriso sulle labbra, ma sulle labbra mie. Non ti fermare, incidi sul mio petto le iniziali di questo amore rotto e poi mettici due ali, così potrà volare anche se mi resta addosso in altre dimensioni.